Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Daria Bignardi, ora in libreria con L'acustica perfetta, pubblicato da Mondadori. Avevamo già parlato dei romanzi della Bignardi, soprattutto quando aveva pubblicato il penultimo, Un karma pesante. Io ho trovato L'acustica perfetta quasi un giallo psicologico, insomma. Ci sono veramente le prime 100 pagine dove si ha fame di sapere, insomma, che cosa succede in questo libro. Ed è un giallo psicologico perché si indaga moltissimo la psicologia dei personaggi, soprattutto la psicologia di una donna. Il protagonista, lo diciamo subito, è un uomo, Arno, che cerca di capire perché sua moglie l'abbia abbandonato all'improvviso, abbia abbandonato lui e la sua famiglia, insomma, anche i figli che hanno insieme. Daria, tu racconti questo libro con un punto di vista, da un punto di vista maschile, che è sicuramente il punto di vista più originale con il quale si poteva raccontare questa storia. Hai trovato delle difficoltà nel, come dire, nel considerare tutta la vicenda con dei sentimenti di tipo maschile? Guarda, anzi, avevo avuto insomma, l'ispirazione e l'idea della storia, della vicenda di Arno e Sara, e a grandi linee avevo in mente come iniziare, soprattutto quale sarebbe stato il cuore di ciò che sarebbe accaduto, però stentavo a iniziare. Quando però mi sono calata nei panni di Arno non ho più smesso e ho pensato che forse era liberatorio, perché comunque non c'è rischio di identificazione, quindi sei molto più sincero e anche sfrontato, forse, se ti cali in un personaggio dell'altro sesso. È come se fosse il narratore fosse completamente libero di dire esattamente quello che pensa che quel personaggio potrebbe dire senza farsi nessun problema di alcun tipo. Quindi, insomma, ti sei identificata bene in Arno. Moltissimo, ti dirò, mi sono anche molto divertita insomma, a immaginarmi nei panni di un uomo. Anche quando, sai, nella classica psicanalisi, nella psicologia, si parla dell'invidia del pene che le bambine avrebbero per i bambini maschi, probabilmente invece c'è più un'invidia della psicologia maschile, invidia o comunque desiderio di calarsi anche in un personaggio maschile. Beh, poi Arno è particolarmente esemplare, direi, da questo punto di vista. Lui è proprio un uomo integro, prima di tutto. È un uomo che ha la grande fortuna di aver capito molto presto cosa gli era necessario per vivere. Lui aveva bisogno di poche cose: del suo strumento, perché ha cominciato a suonare a 7 anni, il violoncello, e poi per tutta la vita ha suonato, e poi molto presto, a 15 anni, ha conosciuto Sara, se n'è innamorato, quindi ha avuto chiaro da subito cosa gli serviva. E poi è stato educato da dei genitori piuttosto liberi e cosmopoliti, o comunque insomma non omologati, a fare quello che gli piaceva, e quindi è un uomo direi abbastanza realizzato, ma anche molto semplice e molto lineare. Quindi la sua idea di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, che per lui è così chiara, mentre per sua moglie invece è estremamente complessa. E infatti i due non comunicano. Ecco, se si dovesse trovare un tema, forse è quello dell'incomunicabilità. Sì, anche del fatto che Arno non ha ben presente chi ha accanto, che è una cosa che capita spesso alle persone quando sono in coppia, in famiglia, ma possono essere anche rapporti di amicizia, cioè che alla fine si scopre di avere accanto una persona che non si conosceva realmente. Sì, la cosa più complicata dal punto di vista di Sara si intuisce essere il fatto che forse a lui non interessa tanto sapere chi è Sara, lui basta averla, ne è innamoratissimo, la vuole, non l'ha mai tradita, né mai la tradirebbe, è devoto alla moglie, però non è così interessato a capire chi è Sara nel profondo, anzi direi probabilmente vorrebbe proprio non evitare certi lati oscuri e complicati di lei. Allora, andiamo un po' per ordine. Abbiamo detto che Arno si innamora di Sara quando ha 15 anni, poi per un lungo tempo, per 16 anni, questo lo si sa proprio dall'incipit, non si vedono. Perché lei lo lascia subito. Perché lei lo lascia immediatamente. Quasi senza ragione, insomma. Poi si rincontrano dopo i 16 anni. Che cosa accade? Si rincontrano e sembra un incontro predestinato, è un incontro totalmente casuale, ma che ha tutti i simboli di un incontro che non poteva non accadere. Se uno stormo di gabbiani sulla pista dell'aereo di lui non avesse tardato l'arrivo da Olbia a Milano, dove lui era andato per il funerale del suo migliore amico, di un'ora, non si sarebbero mai incontrati, perché si rincontrano in una coda per i taxi all'aeroporto di Linate. Lei tra l'altro non doveva essere a Milano, perché lui, almeno lui, non aveva idea che lei fosse a Milano. Loro si erano conosciuti al mare quando erano ragazzini. Quando si ritrovano è chiaro che non si potranno più lasciare, e difatti vivono un intenso periodo di amore e immediatamente fanno una famiglia, hanno dei figli, vivono una stagione di amore molto felice ma molto breve, perché si capisce subito che probabilmente nei 16 anni in cui non si sono visti, nella vita di Sara sono successe cose che ne hanno fatto una persona molto diversa da quella ragazzina solare, meravigliosa, che lui aveva conosciuto. Ed è questa la parte appunto che mi ha intrigato di più del romanzo, cioè riuscire a capire che cosa è passato nella mente di Sara in quei 16 anni, cosa che ovviamente non diremo adesso, perché sennò togliamo tutto. Sì, non solo nella mente, proprio anche nella vita. Nella vita di Sara. Tu prima citavi questo esempio, appunto, se lo stormo di gabbiani non avesse fermato l'aereo. Insomma, il tema del karma, del destino, è un po' ricorrente nei tuoi libri. Mi riferisco al karma pesante, ma poi verso la fine proprio dell'Acustica perfetta si fa riferimento proprio al karma dei personaggi. Come lo vivi tu? Ma chi lo sa, guarda, del tutto inconsapevolmente. Forse questo libro ancora più degli altri, anche se io lo considero il mio primo vero romanzo, L'Acustica perfetta, perché comunque gli altri due libri, soprattutto Non vi lascerò orfani, che era un memoir, insomma un libro di memorie familiari, ma anche Un karma pesante, che era un libro insomma dove ho pagato un grosso debito all'autobiografia. Qui invece siamo proprio in un territorio che è quello dell'indagine psicologica dei personaggi. Mi rendo conto anch'io che il tema del destino torna proprio prepotente, però io mi sono sentita scrivendo questo romanzo un medium, completamente posseduto da questi personaggi, e cioè, attraverso me loro hanno parlato. Arno e Sara mi hanno proprio posseduto, invaso e si sono materializzati. Forse, sai, sono ancora romanzi di formazione in qualche modo, oppure sono romanzi di formazione. Questo lo è, forse a me piacciono i romanzi di formazione, ora che mi ci fai pensare tu, ma sono quelli che mi piacciono di più anche proprio da leggere. Concordo con te sul fatto che L'Acustica perfetta è il tuo vero primo romanzo, effettivamente quello che ha più proprio le connotazioni del romanzo. A questo proposito, tu lo sappiamo, sei un personaggio anche televisivo molto noto. Come, diciamo, la schiera dei critici, il gota dell'editoria accoglie il fatto che un personaggio televisivo noto possa scrivere un bel romanzo? Allora, finora sono stati anche troppo buoni, perché o mi hanno ignorato oppure mi hanno apprezzato, soprattutto col primo libro ho vinto anche tanti premi importanti, ho avuto complimenti da persone che Goffredo Fofi, mai mi sarei immaginata, no, che un Goffredo Fofi potesse apprezzare ad averne, no, ma perché il pregiudizio è sacrosanto, ce l'ho anch'io. Io non compro il libro di un personaggio televisivo, è molto, insomma, non credo, o mi interessa proprio conoscere, sì. Cioè. Ma oppure può essere un saggio, ecco, però. Ecco, ma ti è venuta mai la tentazione di pubblicare un romanzo con uno pseudonimo, così per vedere l'effetto che fa? Ma sai, io ho cominciato tardi a pubblicare, ho cominciato molto tardi, avevo insomma oltre 45 anni, quindi se mi metto a fare poi a 90 forse firmo il mio libro. No, non mi è venuta, sai, sono grande, quindi ormai sono quello che sono, ci sta tutto, ci sta il pregiudizio, ripeto, che capisco io per prima, e finora sono stati anche buoni. La mazzata arriverà, perché è ovvio, la mazzata non può non arrivare, l'aspetto. Grazie a Daria Bignardi, ora in libreria con L'Acustica perfetta, pubblicato da Mondadori. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate su Facebook e su Twitter come Ale Teddina. Grazie per l'ascolto, un saluto da Alessandra Tedesco.